Seconda stella destra, questo è il cammino. L'amico immaginario. Poi la strada la trovi da te. Di Giovanni Savarese. Porta all'isola che non c'è. Dicono gli psicologi che avere un amico immaginario da bambini sia normale. Serve a crescere, poi svanisce. Noi, però, i nostri amici immaginari non li facciamo andare via, anzi, cerchiamo di incontrarli tutte le volte che possiamo, per rivederli e rivederli e rivederli ancora. Benvenuti all'amico immaginario. Ci sono amici immaginari più rassicuranti di altri. Ce ne sono alcuni di cui vorremmo essere amici perché sono intelligenti, altri perché sono eroici, altri ancora perché siamo sicuri che ci farebbero divertire. Ma non sono tutti così. Alcuni li vogliamo come amici perché sono problematici e l'amico immaginario che incontriamo oggi non è proprio un tipo risolto. Non solo è fisicamente così fuori dalla norma, ma allo stesso tempo così incontrollabile che stargli vicino richiederebbe molto coraggio e parecchia incoscienza. Ha un animo doppio, può essere gentile, solitario, magari un po' triste, ma innocuo. Altre volte invece di gentile non ha proprio nulla, è al contrario arrabbiato, violento, rumoroso, passa da uno stato d'animo all'altro improvvisamente, basta un'arrabbiatura, un po' di stress in più, oppure il dolore. Anche questo, il dolore lo fa trasformare letteralmente e gli fa pure cambiare colore. Hulk spacca, la frase più famosa del nostro amico immaginario di oggi, una delle poche che pronuncia, per la verità. Hulk, il mostro verde, tutto rabbia, muscoli e forza incontrollabile, il meno supereroe dei personaggi Marvel, se si eccettua la sua partecipazione agli Avengers come baluardo della razza umana. Una razza a cui tecnicamente appartiene, ma quasi totalmente privo delle caratteristiche dei piccoli e deboli esseri umani normali. Lui è grosso, verde e sempre arrabbiato. La rabbia lo fa apparire, uscire letteralmente dal corpo del suo alter ego e creatore, il dottor Bruce Banner. Ma scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere sul nostro amico di oggi, l'incredibile Hulk. C'è un po' del mostro di Frankenstein, un po' di Dr. Jekyll e soprattutto di Mr. Hyde, un po' del gobbo di Notre Dame, Quasimodo. Hulk, pronuncia corretta Hulk, è l'alter ego verde e rabbioso di uno scienziato, il dottor Robert Bruce Banner, timido e riservato. Entrambi nati dalla penna e dalla fantasia di Stan Lee e Jack Kirby e pubblicati sui fumetti della Marvel Comics dal 1962. È verde, anche se in origine il colore della sua pelle era il grigio, come la creatura di Frankenstein, ed è nato per errore, colpa di una bomba ai raggi gamma inventata dal dottor Banner ed esplosagli addosso durante un esperimento. L'esito, imprevisto, fu proprio la nascita di un bestione di 3 metri, tutto muscolo e rabbia, tantissima rabbia. Un mostro incontrollabile, con una tendenza a distruggere ogni cosa nel raggio di centinaia di metri. Il superpotere è proprio questo, una forza sovrumana che cresce in modo direttamente proporzionale alla sua rabbia. Più Hulk è arrabbiato, più Hulk diventa forte, recita una frase celebre. E poi è indistruttibile, praticamente invulnerabile. Le sue ferite si rigenerano in un attimo. Spicca salti così alti che possono essere considerati veri e propri voli. Intendiamoci, non è un supereroe, non ha poteri messi al servizio dell'umanità, della polizia o di chissà chi altro. I superpoteri ci sono, ma in genere fanno danni più che risolvere problemi. Il nostro amico rappresenta nelle intenzioni di Stan Lee tutto ciò che c'è di nascosto e inenarrabile in ognuno di noi, quel qualcosa che prima o poi, anche contro la nostra volontà, viene fuori, magari in maniera esplosiva. Di certo non è un buono, ma nemmeno un cattivo, ha contro di sé l'ostilità di tutti per la sua diversità, per la paura che suscita negli altri. Banner è un solo, amato solo dalla figlia di un generale dell'esercito, suo arcinemico, Betty, figlia del generale Ross. Come tutti i mostri e come tutti i supereroi, le ragioni della loro nascita nella testa e nella fantasia di chi li ha creati arrivano da punti diversi della storia e della letteratura, oppure anche dalle nostre paure. Hulk è una via di mezzo, moderna, tra la creatura del dottor Frankenstein, o moderno Prometeo, pensata da Mary Shelley all'inizio del 1800, e quell'inquietante Mr. Hyde, alter ego del dottor Jekyll, inventato invece dallo scrittore Robert Louis Stevenson alla fine del XIX secolo. E allora raccogliamo le origini di Hulk in queste suggestioni che ci ha regalato il cinema. This is the story you've heard about, talked about, the spine-tingling, blood-chilling story that stunned your emotions. Frankenstein. Don't touch that! Come lo feci di Victor Frankenstein? Io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente la materia inanimata! Si può fare! Nessuno mai dovrebbe morire. A questo metterò fine. No, non puoi ingannare la morte. Non possiamo saperlo. Ti sei mai fermato a riflettere sulle conseguenze delle tue azioni? Frankenstein. Allora è tutto vero. Mi hanno creato 200 anni fa. Nessun altro è come me. Quasi tutti hanno paura di lui. Ma tu no, non è vero? No, signore, non ho paura. Mary Riley. Tu sai chi sono, non è vero? È da qui che arriva il nostro Hulk, dalla letteratura del passato, da quei mostri che hanno un alter ego, interno come Jekyll e Hyde o esterno come lo scienziato Victor von Frankenstein e la sua creatura. Nel nostro caso c'è lo scienziato, ma è tutt'uno con la creatura. Queste sono le origini del nostro Hulk, ma non solo. C'è da fare i conti con la storia, con le paure dell'uomo nel periodo in cui Stan Lee creava il suo mostro verde e molti altri personaggi a fumetti per la Marvel. La paura nucleare, le radiazioni, la mutazione genetica, tutti elementi che molti personaggi di lì racchiudono, dall'Uomo Ragno agli X-Men, passando anche per i Fantastici 4, ne parleremo. Proviamo prima, come si dice, a contestualizzare. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Il presidente degli Stati Uniti è John Fitzgerald Kennedy. Lo avete appena sentito. Il Papa Giovanni XXIII, che proprio in quell'anno apre il Concilio Vaticano II. È l'anno in cui nascono i Beatles e muore Marilyn Monroe. John Glenn è il primo americano nello spazio e James Bond arriva al cinema. È un anno simbolo per la storia del dopoguerra, per la guerra fredda e l'incubo nucleare. La Francia fa esperimenti nell'atollo di Mururoa, l'Italia apre la centrale di Latina, ma soprattutto è l'anno della crisi dei missili cubani, uno dei momenti in cui era apparso veramente vicino il conflitto fra Stati Uniti e Unione Sovietica. 13 giorni a partire dal 14 ottobre, quando gli americani scoprirono la presenza di missili nucleari sovietici e si prepararono a un'invasione dell'isola di Cuba. Lo racconta il film 13 Days. Comandante, mi chiamo Ken O'Donnell, assistente particolare del presidente. Sì, signore. Il presidente Kennedy mi ha incaricato di trasmetterle un ordine. Non dovete farvi colpire. È un ordine tassativo. Cioè, non deve accadere qualsiasi cosa succeda. Non mi importa di guasti meccanici o se vi schiantate contro le montagne. Ma lei e i suoi uomini non dovrete farvi colpire. Se il presidente dovesse essere costretto a reagire, dovrà usare missili nucleari. Gli americani formarono un blocco navale attorno all'isola. La crisi rientrò quando il leader sovietico Khrushchev fece ritirare i missili da Cuba in cambio del ritiro dei missili dalle basi statunitensi in Italia e Turchia. Se la crisi cubana è la massima espressione della guerra fredda, tutto il clima di quegli anni, dalla metà dei 50 all'inizio degli 80, è intriso di paura. paura che scoppi un conflitto fra i due blocchi, sovietico e occidentale, conflitto che non può che essere nucleare, vista la disponibilità di armi di questo genere e il continuo ampliamento degli arsenali militari. E lo scenario di un conflitto nucleare faceva intravedere la possibile distruzione dell'intero pianeta. L'amico immaginario. Bentrovati all'amico immaginario e al nostro incontro con l'incredibile Hulk. Jekyll, Hyde, Frankenstein, la paura della contaminazione atomica. Hulk ha tante origini, tante ragioni per esistere, ma un solo padre, quello Stan Lee, che insieme a Jack Kirby ha dato vita a tanti personaggi dei fumetti. E dal fumetto di Hulk ripartiamo. Noi lo chiamiamo Hulk, ma ufficialmente in lingua inglese è The Hulk, nato nel 1962, e la serie originale è The Incredible Hulk. I suoi genitori sono Stan Lee, testi e creazione del personaggio, e Jack Kirby, disegni per la Marvel Comics, ma Hulk è anche figlio della paura nucleare, nutrito dalla rabbia e discendente dai mostri della letteratura. La prima apparizione del personaggio nel fumetto statunitense è del maggio del 62, in Italia arriva anni dopo, prima pubblicato in appendice ad altre strisce, tipo il mitico Thor e l'Uomo Ragno, poi con collane proprie attraverso Editoriale Corno, Panini Comics e Marvel Italia. Il fumetto racconta tutta l'esistenza di Bruce Banner, anche prima dell'incidente con i raggi gamma che lo porterà a essere Hulk, un'infanzia con il padre violento che uccide la madre e l'amore per Betty Ross. Dopo lì, come sceneggiatori, sono arrivati Peter David, dalle serie anni 80 e 90, con temi come AIDS e aborto, Paul Jenkins e Greg Pak. Il tutto per una pubblicazione ininterrotta, come non è accaduto invece per altri fumetti. Hulk subisce trasformazioni, incarnazioni come Hulk grigio e sfregio verde, che è forte come Hulk e intelligente come Banner, accade in World War Hulk. Viaggia nello spazio e torna sulla Terra, per esempio nella serie Chaos War. Esiste un Hulk irrazionale, privo del subconscio di Banner, e uno addirittura separato fisicamente da Banner. Questa è la storia del fumetto cronologicamente, fumetto degli anni 60 come tanti altri della Marvel, con alcuni punti di contatto tematici. Approfondiamo con Gianfranco Goria, vecchio amico dell'amico immaginario, professionista del fumetto, tra gli sceneggiatori Disney. Gianfranco, abbiamo sentito come Hulk sia uno dei figli degli anni 60. Quali sono le implicazioni? Esattamente come hai detto, cioè in quel periodo ancora, dopo gli anni 50 e dopo tutto quanto quello che c'era stato, il problema della proliferazione nucleare era tutt'altro che risolto, e negli Stati Uniti andavano di moda i rifugi antiatomici in cui ci si sarebbe dovuti andare a nascondere nel caso del mitico attacco nucleare da parte dell'Unione Sovietica. Paure poi tutto sommato anche comprensibili, la situazione in effetti non è che fosse particolarmente idilliaca al tempo, e questo in compenso forniva parecchi spunti per gli autori di fumetti, questo senz'altro, ecco. Non che fossero mancati prima, però in più c'era questo elemento dell'atomo, dell'energia atomica, che per carità già prima della guerra aveva dato di che pensare anche a Topolino, ma nel dopoguerra chiaramente con il sorgere dei nuovi supereroi, quelli Marvel, quelli che hanno anche i problemi, eccetera, eccetera, ecco che l'elemento atomico si incunea perfettamente. E Hulk, come altri supereroi nati in quegli anni, era il classico personaggio con problemi, molto diverso dagli eroi, per esempio, alla Superman, risolti con la sola missione di salvare gli altri. Figli di un'altra epoca, Gianfranco? Decisamente. Poi, tra l'altro, nel caso di Hulk, il problema del povero scienziato, che è una testona notevole, insomma, non uno scienziatino un tanto al chilo, praticamente un genio, ecco. Il suo problema è quello di non avere il controllo della situazione nel modo più assoluto. In effetti questo contrasta totalmente con gli eroi dei fumetti degli anni precedenti. Quella fu oggettivamente una grossa innovazione, molto significativa, però anche un segno dei tempi che erano cambiati, perché se quando sono nati, che so, Superman o il suo contraltare non super che è Batman, cioè la situazione era talmente brutta in generale, siamo negli anni 30, la crisi eccetera, che la gente in fondo sentiva un po' il bisogno di potersi identificare con qualcuno che i problemi non ci li poteva avere, perché era troppo forte, troppo in gamba, troppo a posto, ed era in grado di risolverli agli altri, a quelli come se stessi che avevano i problemi. Se arrivava Superman eri sicuro che era un amico, non ti fregava e aveva tutte le capacità per risolverti il problema. Negli anni 60 la cosa è cambiata, il mondo era più stabile, pur se sempre con qualche sottofondo di rischio, che però restava in sottofondo, non era proprio lì in casa tua. Stiamo parlando degli Stati Uniti d'America, naturalmente, perché in altri posti, come si sa, i problemi c'erano e ci sono ancora. Quindi c'era una vita tutto sommato ormai tranquilla, la guerra era passata da un po', la gente stava bene. Diventava un po' strano proporre dei supereroi che problemi non ne avevano per niente, insomma, che gli andava tutto bene, non andava a rispondere a nessuna esigenza del lettore. Lì si trattava di generazioni di giovani ragazzi che erano come il Peter Parker di Spider-Man, di giovani uomini e donne che erano come il Banner di Hulk, cioè persone tutto sommato normali, che vivevano una vita normale, con tutti i problemuzzi che uno incontra durante il corso della sua vita. Ecco. E continuiamo ad analizzare un po' più approfonditamente le caratteristiche del nostro amico immaginario di oggi. Prima tra tutte questa, Hulk, pur non essendo tra i primissimi personaggi nell'Olimpo dei fumetti per gli appassionati, è forse tra i più noti tra coloro i quali non sono soliti leggere fumetti, appunto. Vale a dire, il nostro amico verde è più famoso tra il pubblico generico che tra quello dei pazzi per i fumetti. E ne parliamo con Luca Bertuzzi, curatore di Wow Spazio Fumetto. Cominciamo proprio da questo, Luca. Qual è il posto che merita Hulk nel ranking dei personaggi dei fumetti? Beh, è uno dei più, forse è uno dei personaggi che è forse quasi più conosciuto all'esterno dell'universo degli appassionati di supereroi che al suo interno, nel senso che è un fumetto popolare, ma è uno dei pochi personaggi che è riuscito a sfondare veramente questa barriera proprio grazie al telefilm e al fatto che ha questa caratterizzazione grafica così riconoscibile con questo essere verde gigantesco, anche se in realtà poi nei fumetti hanno fatto tutto un arcobaleno di altri Hulk grigi, rossi, a seconda col passare degli anni. Poi si sa, le storie Marvel sono sempre un po' delle soap opera e devono sempre inventarsi qualche spunto nuovo per andare avanti con le storie, quindi negli anni sono fioccati gli Hulk di vari colori. Credo proprio che sia comunque fra i più riconoscibili anche da chi non legge in particolare i fumetti, quindi se non sul podio sicuramente si piazza nella top 10 dei supereroi più conosciuti. E del telefilm a cui ti riferisci parleremo ampiamente più tardi. Di certo c'è che Hulk è l'idolo dei bambini, probabilmente per le sue caratteristiche, no Luca? Perché è un personaggio che ai bambini appunto piace, perché è enorme, tutto colorato, spacca tutto, è fortissimo, quindi capisco bene che possa fare particolarmente effetto su un bambino, sui bambini, soprattutto quelli più piccoli, proprio per le sue caratteristiche così riconoscibili. Parla sempre all'infinito, o quasi, cioè sai, coniugando alla Hulk spacca, Hulk distrugge, almeno nei fumetti di una volta era riconoscibile anche per questo, che aveva questo modo di parlare molto semplice, proprio in storie invece che avevano fatto dei dialoghi molto verbosi, uno dei loro punti di forza, invece Hulk era un po' il contrario, che parlava come un selvaggio di qualche film vietato nell'Africa coloniale, diciamo, quindi in modo un po' buffo. Luca, se dovessi domani allestire una mostra a tema Hulk, quali sarebbero i pezzi imperdibili, i simboli di questo personaggio Marvel? Beh, per Hulk sicuramente dovremmo mettere, ci vorrebbe una statua a grandezza naturale di Hulk forse, per far capire quanto Hulk sia un personaggio imponente ed enorme, che nasce in realtà derivando un po' dal mito di Frankenstein, del Dottor Jekyll e Mr. Hyde, eccetera, quindi da un immaginario preesistente. E forse ci andrebbe dentro sicuramente un paio di pantaloni viola tutti strappati, che sono un po' l'immagine tipica che tutti hanno di Hulk, cioè questo enorme essere verde con i pantaloni rotti che cadono a pezzi e che però ne ha sempre un paio di scorta nelle storie successive, perché quindi tutte le volte che si arrabbia diventa gigantesco e quando torna normale, miracolosamente i pantaloni si vede che sono elasticizzati, tornano alla dimensione normale. Grazie a Luca Bertuzzi, con cui torneremo a parlare tra poco. Il motore principale che muove il nostro amico immaginario di oggi è senza alcun dubbio la rabbia. La rabbia porta il dottor Banner a trasformarsi nel mostro verde e più la rabbia cresce, più crescono i poteri distruttivi di Hulk, addirittura le sue dimensioni. Sul rapporto tra rabbia e forza fisica vivono tanti luoghi comuni, primo tra tutti quello secondo cui, in momenti di particolare rabbia o pericolo, saremo capaci di superare i nostri stessi limiti umani, tipo sollevare un'auto per liberare o salvare un nostro caro. Più avanti capiremo se c'è qualcosa di vero. Faremo un fact-checking sui superpoteri di Hulk. Adesso però parliamo proprio della rabbia con un neurologo, il professor Rosario Sorrentino. Professore, prima di tutto, la rabbia è solo una cosa negativa o è utile a qualcosa? Ma guardi, iniziamo a dire che la rabbia, come la paura, è una delle, diciamo, emozioni fondanti dell'essere umano. Va canalizzata perché ha in sé un forte significato evolutivo. Grazie alla rabbia noi riusciamo ad organizzare, a strutturare dei comportamenti finalizzati a ribadire il nostro istinto di sopravvivenza. Questo dal punto di vista nell'accezione positiva. Ovviamente va canalizzata perché spesso la rabbia è una emozione, è un po' spesso una punta dell'iceberg che va sempre indagata, va sempre approfondita. E dietro questa emozione possono nascondersi delle forme di disagio mentale che possono esplodere in qualunque momento, sotto forma di impulso, sotto forma di raptus, così come i giornalisti chiamano questa emozione, ma che in realtà può esplodere da un momento all'altro laddove nasconde ha dei risvolti negativi. E tornando al nostro personaggio di oggi, sappiamo che il dottor Banner combatte con se stesso, no? Giorno dopo giorno, per impedire alla rabbia di prendere il sopravvento, perché questo provocherebbe, lo sappiamo, l'arrivo spesso indesiderato di Hulk. È vero anche per noi, uomini normali senza superpoteri, che a tener dentro la rabbia per troppo tempo, comprimendola, si rischia un'esplosione improvvisa. Ma questo è in parte vero, però quello che dicevo prima può essere una spia rossa che si accende, che ci segnala in quel momento che una parte dei nostri freni inibitori non funziona. Vede, noi abbiamo due voci nel nostro cervello, quella fermati, non lo puoi dire, non lo puoi fare, ed è la voce della ragione, e l'altra saltagli addosso e fagliela pagare. Noi ci illudiamo che a decidere in alcune situazioni sia la nostra ragione, ma in realtà sono le nostre emozioni, in modo specifico la rabbia, che in qualche modo detta lo spartito, la sceneggiatura, la ragione. E se noi ci ricordiamo quella fatidica testata di Zidane a Materazzi, in quel momento il giocatore aveva quasi fatto prevalere nel suo cervello la ragione, ma poi, come spesso accade nella nostra vita quotidiana, è la rabbia che prende il sopravvento e a volte, per motivi futili, banali, ci trasformiamo nell'assassino per caso. L'amico immaginario. Bentrovati all'amico immaginario. Ci occupiamo di superpoteri, quelli di Hulk, l'incredibile Hulk. Ricapitolando, più si arrabbia, più diventa forte e potente. Poi, quando lo si colpisce, gli si spara o quant'altro, le sue ferite guariscono in un battito di ciglia, i suoi tessuti si rigenerano. E infine i salti, alti quanto un grattacielo, lunghi come 10 campi da calcio messi in fila. Li analizziamo, questi superpoteri, mettendo in campo un approccio scientifico, con una persona che di mestiere fa la divulgatrice scientifica, appunto. Wanda Gatti, che nel recente passato ha curato tra l'altro un seminario al Festival della Scienza di Genova proprio sul tema della scienza dei superpoteri. Allora proviamo a chiedere alla nostra ospite: siamo davvero più forti quando siamo arrabbiati? Hulk insegna? Beh, sicuramente ognuno di noi quando si arrabbia diventa più forte. Perché diventa più forte? Perché si deve concentrare per poter superare quella situazione che gli crea della rabbia, e questo dal punto di vista anche biologico lo possiamo osservare attraverso una serie di neurotrasmettitori che vengono liberati, che quindi aumentano la concentrazione e la capacità del cervello e quindi dell'organismo di essere più forte. Io personalmente ho vissuto delle esperienze in cui mi sono arrabbiata tanto perché avevo una difficoltà e questa difficoltà mi ha dato la forza di superarla e quindi sono diventata più forte. Abbiamo sentito come tra i poteri di Hulk c'è la sua naturale capacità di guarire dalle ferite in fretta con una completa completa rigenerazione dei tessuti. C'è qualcosa nella realtà scientifica, nella ricerca, che si avvicina a questo superpotere? Beh, sì, sì, noi prendiamo Hulk come esempio e ci impegniamo dal punto di vista della ricerca scientifica. Un esempio possono essere le cellule staminali del sangue del cordone ombelicale, che sono le cellule staminali embrionali, che oggi vengono utilizzate per curare il diabete di tipo 1, quindi vengono selezionate, educate, perché le cellule staminali non sono ancora differenziate, quindi non si sono ancora specializzate nel compiere una determinata funzione, e quindi vengono educate affinché possano popolare il pancreas e quindi guarire chi è affetto da diabete di tipo 1. Anche per le cellule staminali, si sta studiando come fare per rigenerare i tessuti neurologici, che sono quelli più complessi e anche più complicati da educare. Anche per le ferite, diciamo, se pensiamo ad un ustione, oggi ci sono delle tecniche che permettono di poter far guarire completamente la pelle da delle ferite da ustioni gravi. Quindi diciamo che Hulk è un po' la strada maestra su cui la scienza si impegna per poter migliorare la salute dell'uomo. Hulk poi spicca salti alti quanto 10 palazzi lunghi chilometri, pur essendo una creatura di soli 3 metri. C'è qualcosa in natura che gli assomigli? Sì, ci sono degli animaletti che effettivamente, diciamo, hanno dei poteri soprannaturali, se noi pensiamo un po' alle capacità che noi uomini possiamo avere. Quindi noi è difficile che riusciamo a saltare molto molto in alto, ma ci sono tipo la cavalletta che riesce a fare dei salti incredibili, oppure gli insetti che camminano sull'acqua, i gerridi, che grazie alla tensione superficiale e a delle particolari zampette riescono a camminare sull'acqua, cosa che l'uomo non potrebbe assolutamente fare. L'uomo può fare delle cose che vanno oltre le proprie capacità se utilizza dei presidi. Ad esempio, se pensiamo a chi per vari motivi non ha spazio delle gambe, comunque riesce a partecipare alle maratone. Quindi l'uomo si sta impegnando, e la ricerca per questo è fondamentale, per poter trovare soluzioni a dei problemi che noi abbiamo, soprattutto per poter emulare la forza di Hulk. Insomma, solo la scienza potrà mai darci qualche superpotere, grazie comunque a Wanda Gatti, divulgatrice scientifica. E visto che la scienza comunque non ci ha dato grandi soddisfazioni, torniamo a rifugiarci nell'immaginazione, nel cinema e nella televisione, luoghi che il nostro amico immaginario di oggi ha frequentato e frequenta tuttora. Sentiamo. Perde nel mare di trasposizioni di Hulk dalla carta allo schermo, che sia piccolo o grande. La creatura immaginata da Stan Lee nel 1962 ha avuto i volti di Eric Bana, Edward Norton e Mark Ruffalo al cinema, ma soprattutto per chi ha vissuto gli anni 70-80, Hulk si identifica con Lou Ferrigno. Culturista americano, ma italiano di origini, è Ferrigno a incarnare il mostro verde nel telefilm L'incredibile Hulk, di recente riprogrammato da Fox Retro proprio per l'enorme successo avuto dalla serie della CBS. Il nome dell'attore è talmente inscindibile dal supereroe Marvel che Ang Lee, girando Hulk, versione cinematografica, volle Ferrigno per un cameo. La parte di Hulk andò invece ad Eric Bana. Il film del 2003 non ebbe grande successo e i fan dello scienziato, che si trasforma nell'enorme creatura verde, arrabbiandosi, ebbero da ridire sulla sua interpretazione. 5 anni dopo la parte venne affidata da Louis Leterrier ad Edward Norton nell'incredibile Hulk. Norton, rispetto a Bana, lavora maggiormente sul lato oscuro della creatura, ma per avere il plauso dei fan del fumetto bisognerà attendere il 2012, quando in The Avengers Hulk è interpretato da Mark Ruffalo. È un tale successo la capacità dell'attore statunitense di mettere in evidenza la difficoltà per Bruce Banner di dominare la rabbia e di tenere a bada il suo lato verde, che si vocifera della possibilità di affidare a Ruffalo il ruolo di protagonista in un nuovo Hulk cinematografico. Intanto, per rivederlo, basterà aspettare il 2015, quando arriverà in sala il nuovo Avengers Age of Ultron. Dr. David Banner, physician, scientist, searching for a way to tap into the hidden strengths that all humans have. Then an accidental overdose of gamma radiation interacts with his unique body chemistry. E quella che state sentendo in sottofondo è la sigla originale della serie TV L'Incredibile Hulk, quella con il culturista Lou Ferrigno, 83 episodi in onda negli Stati Uniti dal 1978 al 1982 e poi anche in Italia con grande successo. Una serie che ci regalò un uomo in fuga, il dottor Bruce Banner, inseguito per colpa del mostro verde che albergava in lui dalle autorità americane. Ogni puntata era costruita secondo un format consolidato, lo ricorderete. Il dottor Banner arrivava nella sua fuga in qualche nuova località. Il tempo di ambientarsi e farsi un paio di amici e accadeva qualcosa che provocava la famosa rabbia. Hulk quindi emergeva dai panni dello scienziato un paio di volte ad episodio e alla fine Banner era costretto a scappare, inseguito dall'esercito e dal giornalista Jack McGee, che gli stava le calcagna ovunque senza sosta, mancandolo sempre di un pelo. Che cos'è quel mostro? Avanti, figliamo! Correte, ragazzi! Forza! Dietro il muro! Non è possibile, scappiamo! Nella scena finale, sempre la stessa di ogni puntata, c'era il povero dottor Banner che si allontanava di spalle lungo qualche strada solitaria con una misera sacca sulle spalle e quella musica struggente in sottofondo. Della serie TV e in più in generale delle trasposizioni cinematografiche del nostro amico immaginario di oggi vogliamo parlare con Andrea Fornasiero, giornalista esperto di cinema e televisione. Andrea, di sicuro quella serie si è fissata nella testa di tante persone anche in Italia. Ti chiedo qual è il valore che attribuisci a quella produzione? Ma guarda, io credo che appena il 18 del Batman di Adam West, quello con Adam West che era così meravigliosamente pop che ti rimaneva impresso anche se ne avevi visti solo 5 minuti per quei pow wow e tutte quelle onomatopee che venivano scritte come in un fumetto, ecco, al di là di quella credo che Hulk, pur non lunghissima, sia stata comunque la serie che è rimasta di più, perché aveva questo spirito on the road che era molto figlio anche di quel tempo, aveva questa tristezza quasi invincibile, c'era questa sigla finale struggente, lui che insomma era sempre sconfitto, era veramente loser, anche se aveva il potere di arrabbiarsi e di spaccare qualunque cosa, rimaneva comunque loser, per cui da una parte c'era il riscatto, però era un riscatto che non ti prendeva in giro, cioè che per quanto fantastico veniva ricondotto, come dire, a una realtà e a un sentimento anche dell'epoca. Quindi no, sicuramente è stata una serie estremamente riuscita, quindi no, è stato notevole, un grande successo. Infatti è rimasta così iconica che poi nei vari film su Hulk Lou Ferrigno è apparso in un cameo. Lou Ferrigno era l'attore culturista che interpretava l'Hulk arrabbiato, l'altro Banner era Bill Bixby e quando si trasformava diventava Lou Ferrigno pitturato di verde. Però l'attore che faceva appunto l'Hulk arrabbiato, Lou Ferrigno, è apparso in un cameo nei film successivi perché è rimasto assolutamente iconico. È il ruolo che Lou Ferrigno e Hulk ricoprono nel nostro immaginario generazionale, ce lo ha ricordato un esperto di televisione generazionale, appunto, Fabio Fazio, nel lontano 1997, nella sua geniale trasmissione Anima Mia. Portò in Rai proprio lui, Lou Ferrigno, intervistandolo insieme a Claudio Baglioni e Gard Lerner. Il traduttore che tradurrà per noi l'incredibile Hulk. Porca miseria, che bicipite. Oh, sorry. Abbiamo messo la poltrona verde in omaggio alla bronzatura. Vedo Baglioni ammirato, come un bambino. Guardate Claudio che guarda Hulk. Incredibile è il nome o il cognome? My name is the Incredible Hulk, that's all. Torneremo con Andrea Fornasiero più avanti. Prima dell'ultima pausa e dell'ultima parte della trasmissione, però voglio chiedere a un altro nostro ospite, Luca Bertuzzi, la distanza che esiste tra la serie televisiva del 78 e le storie del fumetto. Non mi pare siano proprio la stessa cosa, no? Nei fumetti lui è molto meno braccato di quanto non sia nella serie televisiva, però qui hanno preso questo spunto di quest'uomo che non riesce a vivere con questo problema, che quando si arrabbia diventa un essere gigantesco e verde, e da questo spunto sono riusciti a ricavare quest'uomo braccato che se ne va in giro per l'America a raddrizzare i torti delle situazioni con cui si trova ad avere a che fare, ma che poi ogni volta è costretto a fuggire ed andarsene via con quella musichetta tristissima al pianoforte che si sente alla fine di ogni puntata. In realtà appunto non è particolarmente somigliante alle trame del fumetto, però hanno dato una chiave di lettura interessante che evidentemente è piaciuta agli appassionati. L'amico immaginario. Bentrovati all'amico immaginario. Ultima parte della trasmissione, che cominciamo subito parlando di Hulk, il nostro amico di oggi, e le sue vicende cinematografiche. Due film da solista, con il volto prima di Eric Bana e poi di Edward Norton, e poi una partecipazione di grande successo negli Avengers, film in cui alcuni supereroi Marvel si schierano insieme contro minacce planetarie. Ecco alcune battute di Mark Ruffalo, ultimo attore in ordine di tempo a impersonare Hulk proprio negli Avengers, in una clip promozionale del film di qualche tempo fa. Dottore, abbiamo bisogno di lei. E se io dicessi di no? Io interpreto Bruce Banner, dunque Hulk. Banner è uno scienziato che usa i propri esperimenti su se stesso e finisce per creare questo mostro dentro di sé. Alla fine si stanca di fuggire e arriva in un posto dove decide di affrontare questa bestia. I Vendicatori, ci facciamo chiamare così. Gli eroi più forti della Terra, roba simile. Abbiamo discusso molto sul personaggio, abbiamo parlato molto del suo sviluppo e a che punto fosse quando abbiamo iniziato a girare. E torniamo con Andrea Fornasiero, giornalista della rivista Film TV, proprio per parlare dei film di Hulk. Partiamo dai due film in cui Hulk è l'unico protagonista. Cosa ne pensi? Io sono uno strenuo difensore del primo Hulk, perché comunque trovo che sia uno dei pochi film sui supereroi fatti comunque con un'intelligenza e soprattutto con una visione originale, nel senso che da una parte Ang Lee gioca col gusto pop, per cui si diverte a fare questi split screen multipli che poi sposta in blocco come fosse il girare una pagina e via dicendo, ha anche un Hulk che devo dire per la computer grafica di allora era notevole, ma che è invecchiato malissimo, era già allora in realtà sembrava un po' pupazzone, se lo vedi adesso proprio cioè sembra davvero pupazzesco, che però cioè, è anche cosciente, funziona questa cosa perché appunto lui gli dà un taglio pop volendo, però allo stesso tempo ha l'ambizione anche di fare un'altra cosa, per cui riesce anche a raccontare l'aspetto più, come dire, più difficile del personaggio, che appunto in genere i lettori della serie a fumetti conoscono, ma già quelli del telefilm meno e il pubblico normale per niente, cioè che comunque Hulk è un personaggio appunto che nasce anche dalla rabbia, cioè la rabbia di Banner che diventa Hulk nasce anche dai problemi col padre, da questa specie di complesso edipico che nel film è raccontato in modo molto coraggioso e anomalo per essere un film di supereroi. Quindi il primo Hulk fa un po' storia a sé, il secondo invece è stato costruito per inserire il personaggio all'interno di questo universo condiviso cinematografico, tanto più che infatti alla fine dei titoli di coda c'era Iron Man che andava a incontrare il personaggio di William Hart, c'era Robert Downey Jr. che incontrava William Hart. Quindi si è cercato di ricondurlo a una dimensione anche un po' più terrena, però con effetti anche un po' risibili, perché poi appunto alla fine come finiva il film di Hulk? Finiva con una scazzottata tra i vicoli di New York, come fossero due bruti qualunque, lui e Abominio, insomma, era un tantino un anticlimax, per cui insomma non era, poi la regia di Letterie non era un granché, la sceneggiatura sta pasticciatissima, Edward Norton infatti voleva dirigerlo, non gliel'hanno lasciato fare, lui l'aveva già scritta la sceneggiatura ma si è arrabbiato tantissimo quando hanno tolto delle cose, io ricordo uno stacco surreale, cioè c'è Edward Norton che cammina in Brasile, poi si stacca, si passa a un campus americano e poi ci ritroviamo gli Hulk, quasi ci fosse arrivato a piedi. Allora, sembra uno scenario orribile. Ho visto di peggio. Scusi. No, sarebbe utile vedere di peggio. Stark, è arrivato. Banner? Come avevi detto. Allora che si metta l'armatura. La festa la facciamo da voi. Non mi sembra l'ideale per una festa. Dottor Banner, questo sarebbe un buon momento per arrabbiarsi. È questo il mio segreto, capitano. Sono sempre arrabbiato. Indiscutibile poi il successo del film di Avengers. Ti chiedo anche in questo caso un giudizio sul film e sulla presenza di Hulk in questa pellicola. Prima però sentiamo dalle parole di Capitan America qual è il ruolo di Hulk. Ascoltatemi, finché non chiuderemo il portale faremo contenimento. Barton, ti voglio sul tetto, occhi su tutto, schemi e azioni isolate. Stark, a te il perimetro. Ogni cosa oltrepassi i tre isolati la incenerisci o la rimandi indietro. Hai un passaggio? Certo, prego, Legolas. Thor, bisogna restringere quel portale. Rallentali. Ai fulmini. Brucia quei bastardi. Noi due invece resteremo a terra, combatteremo qui. E Hulk? Spacca. Su Avengers il giudizio, bah, insomma, che dire, uno dei più grandi incassi della storia del cinema, quindi che abbia funzionato è oggettivo, cioè può piacere o può non piacere, però che funzioni è un dato di fatto. A me personalmente piace perché mi diverte molto la scrittura di Joss Whedon, per cui tutto questo battibec continuo è molto frizzante, secondo me, soprattutto da che gli Avengers sono finalmente uniti. La prima parte è un po' stenta, ma poi diventa spassosa. E in particolare Hulk è stata la sorpresa del film, è l'unico personaggio che riesce davvero a rubare la scena ad Iron Man, perché ha questi momenti veramente sensazionali quando esplode e picchia Thor così anche senza un perché, o soprattutto quando umilia Loki che sta cercando di fargli il solito pippone, io sono un dio, voi dovreste inginocchiarmi, e lì proprio lo prende, lo sbatte di qua e di là come se fossimo un Looney Tunes in un cartone animato di Anne Barbera, non so, e appunto alla fine commenta, ed è l'unica battuta che fa, è un dio gracile, è l'unico commento di Hulk, per il resto non fa altro che ruggire, arrabbiarsi, salva anche Iron Man tra l'altro alla fine, quindi insomma in un certo senso anche il suo momento più eroico. Ora basta! Voi siete inferiori a me! Io sono un dio, creatura ottusa! Non subirò angherie da parte tua! Un dio gracile. Non credi, Andrea, che tre film con tre Hulk diversi per caratteristiche, tre attori diversi, non creino qualche confusione, soprattutto nei fans? Sono personaggi che esistono ormai per essere reinterpretati, quindi io anzi apprezzo in genere se vengono reinterpretati in un modo efficace, e trovo che quello di Joss Whedon sia stato molto efficace. Tanto più che speravo adesso un film tutto per sé, magari tra Avengers 2 e Avengers 3, prima è impossibile. Ho chiesto anche a Raffalo se fosse stato interessato a una serie TV quando è passato qui a Roma per il primo Avengers, mi ha detto di no, che è un peccato, però effettivamente di una serie TV si parlava, sembrava dovesse lavorarci anche Guillermo del Toro, ma poi il progetto, dopo il successo della versione cinematografica dell'Hulk di Avengers, è naufragato, perché a quel punto lì non si poteva pensare di riproporre il personaggio, un personaggio così di successo con i mezzi molto più poveri della televisione, non avrebbe minimamente funzionato, e quindi hanno abortito il progetto. E usiamo in conclusione gli ultimi due strumenti a disposizione dopo aver sentito gli esperti per misurare la popolarità del nostro amico immaginario di oggi. Entrambi gli strumenti hanno a che fare con la gente comune, che va al cinema, guarda la TV, compra i fumetti e soprattutto si fa conquistare dal merchandising dei nostri amici immaginari, Hulk compreso. I più ambiti sono i pugni, verdi, enormi, in cui infilare le mani e sentirsi veramente come Hulk. Il costume si completa con una maglietta imbottita e dalla muscolatura in evidenza, e pantaloni che hanno il disegno dei veri pantaloni viola di Hulk, strappati oltre alle gambe verdi. Ovviamente la maschera, manco a dirlo, verde, senza contare lo scalpo, i capelli neri del mostro. Questo è il classico travestimento e da qui parte il modello per tutto il repertorio del merchandising filmato Hulk, dunque Marvel e ora Disney. Il verde domina, dalle magliette, ci sono quelle con i muscoli disegnati e quelle con i pantaloncini volutamente strappati, passando alle ciabatte, poi costumi da bagno, mutande, portachiavi. Un bambino può vestire Hulk dalla testa ai piedi e un adulto ci può andare vicino, visto che si trovano anche le bretelle e i gemelli con il simbolo dei raggi gamma. Si può completare la famiglia con guinzaglio e collare per il cane. L'action figure, visto che di giocattoli alla fine si tratta, c'è di tutte le dimensioni e di tutti i prezzi, dai 5 euro in su, e ancora bicchieri, tazze modellate sulla faccia del supereroe, supereroi, orologi, felpe, pigiami. Per una maglietta da bambino si devono contare una decina di euro. La felpa ufficiale Disney ne costa 29, il pigiama 19. Non ci resta che fare un salto in rete, su internet, per contare e valutare quanto Hulk conti. Scrivi Hulk e Google spara 34 milioni di risultati. La prima voce è quella di Wikipedia che racconta il personaggio. La seconda, però, è Givanildo Vieira de Souza, il vero nome del calciatore brasiliano soprannominato Hulk, visto di recente ai mondiali di calcio brasiliani. Poco dopo arriva la pagina del wrestler HulkHogan.com. Marvel.com ha una pagina ufficiale dedicata a Hulk e ne esiste una ufficiosa su marveldirectory.com, oltre a incrediblehulkonline.com, tutte in inglese, mentre in italiano troviamo la pagina antaninet.it. Facebook e Twitter sono ricchi di riferimenti a Hulk, ma non ci sono account specifici dell'eroe, quanto piuttosto il nome di Hulk viene utilizzato per definire altre persone o gruppi, come ad esempio Chiocciola Feminist Hulk. L'account ufficiale Chiocciola Marvel raccoglie anche i fan della creatura verde. Il mercatino del fumetto.it non manca di pezzi della collezione, dagli albi con Hulk grigio fino alle avventure congiunte Devil Hulk, passando per World War Hulk. Fra le immagini, il fumetto vince sul calciatore e lo stesso vale per la ricerca su YouTube. Film, trailer, cartoni animati su tutti. Ci sono tantissime recensioni di videogiochi a tema e i cosiddetti video walkthrough, in cui i videogiocatori spiegano i trucchi e le soluzioni dei vari livelli dei tantissimi videogiochi esistenti con protagonista il mostro verde della Marvel. E anche questa puntata dell'Amico Immaginario è finita. Un grazie a Chiara Pizzimenti, Barbara Righini e Roberto Frangipane. Un grazie a voi per l'ascolto. Un saluto da Giovanni Savarese.